Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti e vicini lontani, buona giornata. Oggi parleremo di un argomento che è abbastanza bizzarro. Faremo un giro tra gli chef stranieri che da anni sono arrivati in Italia, e molti di questi sono stellati, e mi sono chiesto: ma hanno imparato in Italia? La cucina italiana che li ha stimolati, erano già dei talenti, insomma, o c'è stato pure una diciamo mix tra le loro tradizioni e quelle italiane? Oggi le andremo a scoprire anche delle cucine probabilmente che non sono molto conosciute, ad esempio la cucina uruguaiana, quella colombiana, insomma conosciamo la francese probabilmente e altre vicino a noi, ma queste lontane le abbiamo sempre conosciute ben poco. E allora andiamo a scoprire questo mondo. Ricordo 800 24 00 24 chi volesse intervenire in diretta, oppure sms 349 238 6666 per gli sms. Allora cominciamo questo giro. Appunto, ho detto uruguaiano, e con Mattia Sperdomo, che è chef del ristorante Pont de Fer de Milano. Ma Mattia, hai imparato in Italia? La cucina italiana ti ha attratto, sei venuto per questo? Oppure diciamo che eri già un valente chef quando eri in Uruguay? Bene, buongiorno a tutti, prima di tutto. No, io sono arrivato nel 2001, ne avevo 21 anni, per cui diciamo lavoravo già in un ristorante italiano, però quello che si fa all'estero, diciamo soprattutto in Uruguay e in Argentina, è una cucina italiana fatta male, insomma, per cui non avendo la materia prima, non avendo i prodotti, comunque sono una generazione che sono andati negli anni 50, sono arrivati nel Rio de la Plata e si sono adattati ai prodotti che c'erano là. Io quello che ho imparato l'ho imparato tutto qua, diciamo, della cucina italiana. Quindi il prodotto, hai messo diciamo l'accento sul prodotto, ma sentiamo ora uno chef francese se anche lui è d'accordo sul prodotto e ha scoperto molto dell'Italia. Buongiorno a Philippe Levaillier. Buongiorno a tutti. Io so che sei appena tornato da Hong Kong, e quindi sarai ancora sotto jet lag, perché sì. Philippe Levaillier, oltre ad avere il ristorante Miramonti l'altro a Concesio, ha anche un ristorante stellato a Hong Kong. Philippe, cosa hai scoperto dell'Italia? Beh, cosa ho scoperto? Ho scoperto che è stato il trampolino di lancio della mia carriera, questo, nel senso che io sono arrivato in Italia così per caso e niente, come lo sai, io non sono più partito. Il mio grande, veramente grande orgoglio di adesso portare la cucina, come dico senza presunzione, la mia cucina italiana a Hong Kong, e questo è veramente geniale. Ecco, ma cucina di burro o cucina di olio, Philippe? Davide, secondo te? Ecco. Io purtroppo vedo, nel senso, ho cercato bene, ma in Bretagna non ho mai visto un albero di olive, non ne ho mai incontrato nella mia vita. Senti, ma la cucina italiana, ecco, come la vedi la cucina italiana, Philippe? Beh, guarda, la cosa che mi riguardo è che veramente un grande orgoglio vedere questo Made in Italia all'estero. La cosa che vedo a Hong Kong sul Made in Italia è veramente bellissimo, perché la gente è veramente interessata e noi siamo orgogliosi, io sono veramente orgoglioso di fare questa cucina all'estero. La cosa che mi rattrista un pochino è vedere questa stessa cucina un po' bistrattata un po' in Italia, un po' criticata, un po' quasi meno amato sul suo territorio. Quindi tu dici che noi italiani non abbiamo la nostra cucina? De volte io la vedo così, la vedo, ho l'impressione delle volte che si mangia meglio all'estero, dalle mie compatriote stellate, con dei prezzi più che raddoppiati nelle stesse, al livello Michelin 1, 2, 3 stelle. Si mangia meglio in Francia, ma si paga il doppio. Non riesco a capire, credo che sul territorio italiano si mangia veramente molto bene, a dei prezzi veramente giusti. E questo mi dispiace un pochino, sì. Mattia, se anche tu pensi che bistrattiamo la nostra cucina? Beh, allora, senza ombra di dubbio, la cucina italiana è una delle migliori cucine al mondo, e su questo non credo che lo neghi nessuno, tanto è che è un punto di sicurezza in tutto il mondo. Uno vede un ristorante italiano ed è comunque il paragone di mangiare bene, stare bene e sicurezza. Non è una questione di strattarlo, secondo me l'idea è quella che comunque è molto conservatora, cioè è rimasta un po' in quello che faceva la nonna, e ci dimentichiamo che comunque il mondo va un po' avanti. Per quello che a me riguarda, penso che ci deve essere un po' più di rischio, cioè rischiare un po' di osare un po' di più a fare comunque una nuova cucina italiana, perché non si può rimanere agli anni comunque 50 o 60 con i parametri che si usavano prima. Quindi tu dici c'è bisogno di un rinnovamento. E Filippi, il prodotto italiano come lo trovi? Vabbè, il prodotto italiano, ma tu parli per l'Italia? Sì, per l'Italia, sì, dico il prodotto italiano nel senso che dico quello che trovi in Italia. Quando lavori con dei professionisti, io le persone con chi lavoro, vediamo, nel senso non le chiamo fornitore, io le chiamo più collaboratore, vediamo, nel senso senza una fiducia con chi lavora insieme a te, nel senso con chi ti rifornisce, e quando c'è professionalità, allora qui hai veramente grande materia prima. Con chi ha niente a che fare con me sono tutti quella gente lì che da un giorno all'altro si mettono a fare un mestiere che non sanno e non è loro mestiere, vediamo, nel senso noi abbiamo della gente seduta che aspetta della professionalità, e noi cuochi, chef, aspettiamo la stessa professionalità delle persone che forniscono questi ristoranti. Bene. E questo è veramente importante. Sentiamo subito una radioascoltatrice, mi sembra, da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono di origine della Malesia, che io ritengo il paradiso del cibo, perché per me cucina e cultura è fondamentale. E in Malesia abbiamo varie culture e ognuno mantiene la sua cultura nella cucina. E io sono in Italia da 40 anni e ammiro questo paese da tutti i punti di vista, e penso che la ricchezza della cucina italiana è la cucina regionale. Io ho vissuto a Milano, nel Trentino, adesso sono a Roma, e ovunque vado ho imparato a mangiare e cucinare come fanno qui in Italia. Io sono venuta in Italia che non conoscevo la cucina italiana e lo disprezzavo perché non lo conoscevo. Da noi il formaggio si mangia con la marmellata a colazione, il Kraft, per cui i primi tempi il formaggio per me, i formaggi più lavorati, non lo sapevo apprezzare, come anche il vino, bevevo il Lambrusco come Coca-Cola. Invece pian piano ho imparato la cucina. Bene, grazie. Sì, ecco, questo vuol dire. La ringrazio del suo intervento. Ricordo 800 24 00 24, per chi volesse intervenire, specialmente se ci sono degli stranieri, ben volentieri, chi vuol dare l'apporto appunto a questo dibattito. SMS 349 238 6666. Ma ora abbiamo parlato appunto di cucine che sono poco conosciute da noi, e la cucina brasiliana non è molto conosciuta. Abbiamo con noi Maurizio Zillo, che è lo chef del ristorante Rebelò di Milano. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Ecco, l'incontro con la cucina italiana com'è stato? Cioè, tu avevi già una professionalità in Brasile con la cucina brasiliana, oppure sei nato e sei cresciuto in Italia dal punto di vista professionale? Allora, vengo da una famiglia di italiani immigrati in Brasile, però professionalmente ho iniziato in Francia, quindi la mia base di cucina è francese. Quello che è successo con l'Italia è un caso d'amore, dopo aver girato un po' il mondo. Un caso d'amore con la possibilità di ogni giorno andare al mercato e trovare qualcosa di nuovo, il prodotto. L'Italia mi ha insegnato pure che, diversamente dalla cucina francese, qui non bisogna lavorare tanto il prodotto. Meno non lavori, meglio è. Quindi questo connubio tra la cucina classica francese e la leggerezza, la semplicità della cucina italiana, usando i prodotti più diversi, che c'è questa parola che non avevo mai sentito, però prodotti dimenticati, noi proviamo di riscoprirlo, che neanche l'italiano. Ad esempio, mi è arrivata una leccia da 30 kg pescata a Manfredonia e, cioè, gli italiani non sanno cos'è, vengono a chiedere cos'è una leccia. Beh, sono d'accordo con te, perché le specie di pesce in Italia conosciute, è stato fatto più volte, diciamo, degli interviste, sono state fatte, sono una decina, quindi ci sono tutta una serie di pesci che costano poco, tra l'altro, e sono straordinari, che non conosco. Questo veramente è un fatto di, purtroppo, di ignoranza. Sono completamente d'accordo con te, rimani con noi comunque. Ora andiamo in Giappone, perché andiamo da Masayuki Kondo, è un giapponese, chef della locanda del Pilone di Alba. Buongiorno Masayuki. Buongiorno. Allora, tu sei arrivato in Italia, diciamo, per studiare la cucina italiana e poi sei rimasto? Penso che sia stata così la tua avventura. Sì. Prego. Sì, io ho iniziato a lavorare in Giappone, sempre cucina italiana. Poi sono avvenuto la 2004 in Italia, poi ho iniziato a studiare tutta la cucina italiana. Ecco, tu hai detto che hai cominciato in Giappone a fare cucina italiana. Hai trovato differenze quando sei arrivato in Italia, immagino? Sì, perché io ho lavorato sempre in Giappone a cucina molto tradizione, molto sì. Semplice, tipo caprese, prosciutto, melone, qualcosa lì. Poi sono arrivato in Italia e al primo ristorante che ho lavorato è Guido Pollenzo, che è legato molto al territorio ma molto tecnico rispetto a in Giappone, quindi ha iniziato a imparare tutto tecnico di alta cucina. Quindi tu sei nato nel tartufo, perché sei nato da Guido, che era a suo tempo il re del tartufo, e poi sei andato ad Alba, quindi hai scoperto il tartufo. Ma lo conoscevi già il tartufo? Sì, in Giappone usava pochi, perché era, rispetto in Italia, molto cari, quindi pochi ristoranti che usano un tartufo bianco. Certo. E quindi come trovi i prodotti italiani? I prodotti italiani è molto saporito rispetto tipo verdura, e in Giappone tanti tipi diversi, ma un po' meno la saporiti. Invece la Italia europea è molto la verdura e saporito, perché forse sole o tempo che era diversa. Ok. Bene, rimani con noi, sentiamo un altro radioascoltatore, Oscar da Ferrara. Buongiorno Oscar. Salve, buongiorno. Niente, io sono nato in Argentina, ho vissuto fino ai 22 anni. Quando mi sono approcciato con la cucina italiana, che già conoscevo in parte perché sono di origine italiana, ho scoperto la varietà in ogni luogo. Come accennava la signora della Malesia, effettivamente ci sono le cucine regionali, dopo suddivisi per i paesi, magari utilizzando le materie prime similari, però dopo riutilizzandole in cucina e proponendole in modi diversi. Questa varietà e questa infinità di possibilità con le medesime materie prime veramente ha una delle cucine più ricche al mondo, come diceva Mattias dell'Uruguay. Bene. Grazie Oscar, ora andiamo a Roma, andiamo da una chef che ha una storia abbastanza, come si dice, bizzarra, nel senso che ha studiato da avvocato negli Stati Uniti, ha vissuto negli Stati Uniti e poi è tornata in Italia ed è diventata una chef molto apprezzata. Buongiorno a Cristina Boverman. Buongiorno, grazie mille per avermi invitato. Cristina, il tuo approccio, tu sei di origine italiana, poi hai vissuto parecchio, diciamo, negli Stati Uniti e poi sei tornata in Italia. Ecco, dalla partenza al tuo ritorno, hai trovato molto cambiata la cucina italiana? Beh, la cucina italiana è molto cambiata, devo dire, meglio. Purtroppo all'estero quello che nella maggior parte dei casi è conosciuto della cucina italiana è spaghetti e pizza. Invece si è fatto veramente un grandissimo sforzo e si sta facendo un grandissimo sforzo per portare all'estero un concetto nuovo di cucina moderna italiana, che comunque sempre rispetta ed è sempre legato alla tradizione. E questo si spera avvenga sempre di più all'estero e ovviamente con base in Italia, in maniera tale da essere apprezzato a livello internazionale molto, tanto quanto altre cucine. Ecco, e cosa, del tuo periodo americano, quando sei tornata in Italia, cosa hai portato in cucina? Io ho fatto, insomma, un processo un po' inverso rispetto agli altri. Anche io ho un background educativo francese, mi sono laureata appunto in cucina francese, di origine pugliese, vissuta negli Stati Uniti in vari stati. Quindi, un bel mix. Esatto, ho sempre ritenuto che la cucina fosse un'espressione culturale del momento storico che la gente sta vivendo, quindi ho cercato, prima quando sono venuta in Italia ho portato ovviamente con me parte della cucina americana, quasi estremizzandola, invece ora sto cercando di reintegrare, filtrandola attraverso ovviamente le mie esperienze personali, quello che ho imparato all'estero, ma soprattutto dando risalto a quello che è la cucina italiana, quindi molte volte un mix di ingredienti che però hanno come caratteristica principale quello di essere italiani, guardando un piatto si sa che è italiano, ma si sa anche che ha avuto delle influenze culturali che provengono da altre culture, appunto. 800 24 00 24 per chi volesse intervenire, ma io voglio tornare un po' al discorso con il nostro amico giapponese, perché abbiamo parlato prima di pesce, di ignoranza di pesce. Voi giapponesi siete molto, diciamo, preparati sul pesce. Masayuki, cosa hai trovato? Hai trovato in preparazione in Italia sul taglio del pesce, sulle conoscenze delle varie varietà? Taglia di pesce non ho imparato in Italia, perché soprattutto ho imparato tutto in Giappone. Certo. E invece rispetto tipo di crostacei, scampi, gamberi, cose, cioè noi usiamo un po' meno, poi da Italia è molto più buoni rispetto a pesce. E quindi ho imparato tante cose tipo crostacei, frutti di mare, perché mare è più saporito in Italia. Quindi viene molto più buono rispetto al Giappone, perché il Giappone è un mare molto delicato, quindi un po' meno saporito. Invece è pesce, la diverso tipo di pesca, quindi in Giappone io trovo meglio a pesce. Bene, grazie Masayuko, sentiamo Matilde da Milano, grazie. Da una radio ascoltatrice. Io sono stato in Giappone e ci ho abitato per 10 anni. E, conosco il Giappone, insomma, comunque la mia storia è un po' da studiosa che si è trasferita in Giappone. Allora, quello che volevo dire è che in Giappone ci sono esattamente le stesse verdure che abbiamo noi qui, più qualche differenza. La differenza è quella che diceva lo chef, non hanno molto sapore e non hanno molto profumo, e se uno va in un bosco giapponese non sente quegli odori fortissimi che sente da noi, ecco, questa è la differenza ed ha ragione lui. Beh, sulla lavorazione del pesce però c'è, secondo me c'è abbastanza differenza, perché sarà meno... La lavorazione del pesce è tutt'altra cosa, certo. Loro sono davanti a noi mille le scuole di taglio. Le scuole di taglio, insomma, sono fondamentali. Grazie Matilde, torno a Cristina, volevo chiedergli questo. Cristina, diciamo che tu sei arrivata in Italia già da un po' di anni, vedi un'evoluzione della cucina italiana? Certo che vedo un'evoluzione della cucina italiana, abbiamo grandissimi rappresentanti, insomma chef di grandissimo livello che stanno portando il concetto di cucina moderna italiana all'estero, siamo entrati anche nella top, diciamo nelle più grandi classifiche a livello mondiale. La cucina italiana è dappertutto, ma l'italiano è dappertutto, è la cultura italiana che pervade veramente il mondo. Onestamente devo dire la verità, e questo penso che tutti possano confermarlo, dovunque noi andiamo, se diciamo di essere italiani siamo sempre accolti a braccia aperte. Questo secondo me è un canale che va sfruttato, proprio perché attraverso questa simpatia generale che il mondo nutre nei confronti dell'Italia si può far penetrare un concetto di cultura italiana anche attraverso la cucina. Bene, grazie Cristina. Sentiamo Maria Grazia dalla provincia di Verona. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno. Prego. Sì, ecco, no, io volevo parlare di un'associazione che si chiama Le Cesarine. Sì. E con questa associazione ci sono gli stranieri che arrivano in Italia e vengono a mangiare nelle nostre case. Praticamente è lo straniero che vuole proprio gustare la cucina italiana e apprezzare la cucina locale. Io nel veronese, pur essendo umbra, cucino veronese naturalmente, che sono 30 anni che sono nella zona, e ricevo americani, olandesi, e sinceramente nel mio libro dove lo scrivo se hanno apprezzato o no, ci sono delle lodi enormi a questa cucina, però in Italia non è conosciuta questa cucina, non riesco a capire perché, visto che oltretutto la gente va molto spesso al ristorante, bene. Cioè, se ne... bene, viva le Cesarine, insomma, grazie a Maria Grazia. Prego. Ora abbiamo con noi in linea, diciamo, due mitteleuropei, abbiamo uno chef austriaco e uno chef tedesco. Lo chef tedesco è un po' il principe degli chef italiani, gli chef stranieri in Italia. Buongiorno Heinz Beck. Heinz, buongiorno. Grazie, ascoltatore. Grazie Heinz, hai perso la voce mi pare. Sì, sì, un po' di raffreddore. Senti Heinz, beh, tu ormai hai tanti anni che sei in Italia e quindi conosci benissimo il prodotto italiano, forse meglio anche di molti cuochi italiani, e diciamo che ormai sei un po' considerato, diciamo, un italiano in cucina. Volevo chiederti questo: quando tu sei arrivato in Italia, ecco, l'impatto con la cucina italiana qual è stato? Guarda, io non conoscevo la cucina italiana. A questo punto ho cominciato tutti i giorni a mangiare nei ristoranti più di base, ai ristoranti dove cucinavano le nonne o le mamme, per capire che cosa è questa grande cucina, e mi sono trovato molto molto bene, e successivamente ho cominciato anche di rivedere la mia cucina, perché volevo sempre fare dall'inizio una cucina per gli italiani, e poi piano piano ho capito, ho cambiato, ho studiato e ho una cucina che è molto molto apprezzato. Ecco, tu a Londra, nel tuo ristorante di Londra, fai la stessa cucina? Sì, faccio una cucina che ha comunque il filo conduttore stesso, poi i piatti sono un po' diversi. Ok, rimani con noi, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. È arrivato un sms che mi dice: sono Roberto di Asti, a Imperia, i pescatori pescano la leccia. Quindi qualcuno conosce la leccia, caro Maurizio? Tanti la conosceranno, però è stato strano ieri che nessun cliente a Rebelot lo conosceva, quindi... Beh, succede anche con il Suro, col Sugarello, con la Palamita, con la Lunga, sì, col pesce bandiera, purtroppo succede. Buongiorno Andreas Zangerl, austriaco, buongiorno Andreas. Buongiorno a tutti, buongiorno. Andreas, tu sei stato lunghi anni in Sicilia, ecco, cosa hai portato, cosa porti dalla Sicilia, dalla cucina siciliana nella tua cucina? Ma io sono arrivato nel 95 in Sicilia, e anche per me è stato un impatto forte, perché tutti fanno la cucina italiana, sia negli Stati Uniti, in Austria, però è una cucina italiana diversa. Così, conoscendo poi poco a poco le materie prime, parlando con gli altri colleghi, comunque comprare ai mercati, ho capito che qua in Sicilia c'è una materia prima che è incredibile. E così ho messo un po' di tecnica, no, mia, anche piatti austriaci che praticamente ho tradotto poi in piatti siciliani, perché la materia prima magari è uguale, però più buona questa qui che abbiamo qui in Sicilia. Mattias Perdomo, perché in Italia, cioè, la cucina italiana viene così bistrattata nelle cucine all'estero? Cioè, quando si rifà la cucina italiana si fa veramente una, come posso dire, un qualcosa che non è reale, che non è veritiero, che non è verace, è sempre un'imitazione. Perché secondo te questo? Ma secondo me stiamo tutti un po' dicendo lo stesso, e non ce n'è ombra di dubbio che il prodotto italiano sia uno dei migliori al mondo, il più, con più varietà e più buono al mondo. Il problema è che secondo me stiamo perdendo un po' di energie invece di cercare di unirle, no? E come diceva Cristina, è impossibile pensare che all'estero si conosca solo la pasta o la pizza, la pasta al pomodoro o la pizza, cioè la cucina italiana è molto di più, però bisogna fare un po' di unione fra i grandi cuochi, anche i cuochi di livelli comunque di trattorie, delle conoscenze, dei giornalisti, bisogna fare un po' di unione per poter esportare fuori dall'Italia la vera cucina italiana, che non è quella che tutti conoscono, se no è un'altra diversa, perché siamo tutti d'accordo a parlarne, però è molto difficile mettere uniti tutti le persone che sanno fare questo mestiere e trasportarlo fuori all'estero con una forza diversa, perché cioè, come, è pazzesco che oggi si sappia bene che la cucina migliore al mondo lavora con le barbabietole e i tuberi, cioè nel senso, noi dobbiamo, con la materia prima che c'è qua è impossibile pensare che comunque a livelli mondiali siamo messi comunque a paragone con altri o ancora dietro di altri, e questa è una cosa che, se non ci mettiamo noi le mani, iniziamo a lavorare tutti insieme, non si potrà mai cambiare. Sì, purtroppo anche in Italia comunque seguiamo dei filoni molto particolari, perché c'è il momento del baccalà, del merluzzo nero, cioè tutta una serie di cose che diciamo arrivano all'improvviso e finiscono in tutti i menù. Sicuramente non abbiamo la tradizione del merluzzo nero, pur ormai si trova un po' ovunque, ma ci sono dei momenti che secondo me vengono imposti non dal mercato ma dalle società di distribuzione, perché ormai è chiaro che poca gente, questa è la verità, va al mercato. Sono pochi i cuochi che vanno al mercato. Heinz, tu ci vai al mercato? Vado al mercato, vado ben volentieri al mercato, non vado tutti i giorni perché ho anche dei collaboratori che diamo il cambio, certo. Però è importante perché così vedi anche la stagionalità dei prodotti e come cambiano, e questa è la base della mia cucina, perché il prodotto durante la stagione è comunque migliore. Ecco, ma volevo chiederti questo: a Londra i prodotti che tu utilizzi sono gli stessi di Roma oppure hai difficoltà? Perché tempo fa, e faccio nome e cognome, Bruno Barbieri in un'intervista mi ha detto: a Londra non si trova prodotto italiano di qualità. È così? Il prodotto di qualità italiano costa tantissimo a Londra e questo è un problema, però noi facciamo una selezione, quello che posso comprare localmente di qualità compro localmente, tutto il resto porto dall'Italia. Ecco Zanger, diciamo che l'Austria è vicino a noi e moltissimi austriaci vengono in vacanza in Italia, ma in Austria come viene considerata, come viene giudicata la cucina italiana? La cucina italiana in Austria è una cucina importantissima, ci sono tante pizzerie, ristoranti che fanno però una finta cucina italiana. Ecco, questo è il punto. Il problema è questo: a portare un piatto, per esempio un piatto strettamente siciliano in Austria è difficoltoso, è difficile, perché la gente non lo capisce. Se l'olio d'oliva stesso, un buon olio d'oliva che picchia un po', no? In Austria non viene gradito, magari qui. Quando arriva l'austriaco, un piatto di questo genere, due se la mangiano. Però a fare lo stesso piatto lì è difficoltoso, perché la gente non è abituata ai gusti. Infatti vengono poi trasformati. E lì si perde poi l'originalità di questi piatti, purtroppo. Sì, quindi abbiamo sicuramente una controfigura della cucina italiana nel mondo, specialmente diciamo che negli anni 60-70 era veramente una controfigura. Ma voglio chiedere a Maurizio Zillo, brasiliano, visto che il Brasile è ricco di italiani, lui stesso figlio di italiani, quale prodotto arriva in Brasile dell'Italia? Sicuramente la pasta, il riso, però la considero scrausa la pasta, almeno quando ero lì. Magari oggi sta cambiando un po' anche il livello di esigenze del consumatore brasiliano, che sta viaggiando di più, viene qui, trova un'altra realtà, torna a casa e magari stanno arrivando anche le paste artigianali, i prodotti, i pomodori buoni, i formaggi, ma però comunque è stata una cucina italiana anche fatta, adattata alle condizioni, certo, che c'erano all'epoca. Cioè, mi ricordo mia nonna che ammazzava il maiale, faceva le sue cose, la salsiccia. Oggi invece le cose mi sembra stanno cambiando, però la cucina italiana all'estero, in Giappone appunto, sono andato adesso ad agosto, ho mangiato uno spaghetto al pomodoro con la panna dentro, un ristorante italiano, uno dei migliori, quindi purtroppo va adattata al gusto di ogni paese, in Brasile uguale. Bene, grazie. Siccome parliamo di chef, è giusto riconoscere anche quando fanno delle operazioni veramente molto positive. E voglio citare che domani a Mantova ci sarà un'asta che si chiama Il Gusto per la Ricerca, appunto ogni anno, sono già 11 anni mi pare che avvenga questa asta in giro per l'Italia, ha già raccolto 1,5 milioni di euro, dove tanti chef importanti cucinano, fanno pagare un prezzo ovviamente, c'è un'asta dei vini, un'asta anche di di altre cose, e tutto questo va appunto a degli enti che fanno ricerca specialmente per i bambini, a Padova in particolare, e si chiama Il Gusto per la Speranza, diciamo, questo organismo. E diciamo che domani appunto il pranzo si svolgerà a Palazzo Ducale, e quindi chi volesse essere interessato può andare. Cominciano ad arrivare gli sms sempre sul finale, purtroppo, e non si può sempre dare risposta a tutti. Per esperienza all'estero pensano che la cucina italiana utilizzi l'aglio abbondantemente. Beh, io direi che insomma, se si va negli Stati Uniti, allora sì che si capisce l'uso sfrenato dell'aglio. In Italia non direi proprio così. Bene, continuiamo. Abbiamo ora un colombiano. Abbiamo un colombiano, Roy Caceres, del ristorante Metamorfosi di Roma, e colombiano, quindi anche questa è una cucina che probabilmente noi in Italia conosciamo poco. E a Roy voglio proprio chiedere questo: l'impatto di colombiano con la cucina italiana, quindi con i prodotti italiani. Buongiorno Roy. Buongiorno a tutti. Niente, allora, la mia storia è un pochino particolare, perché io poi sono arrivato in Italia che non sapevo cucinare, amavo mangiare, perché è importante questo, e quindi ho imparato a cucinare italiano, diciamo così, la mia cucina è di impronta molto molto italiana. La cucina colombiana la sto riscoprendo adesso, è una cucina ricca di tante verdure diverse, una frutta particolare, veramente profumata, che mangio da quasi 20 anni che non torno al mio paese, e quindi è una cucina fatta di sapori diversi, però comunque molto legata alla sua tradizione colombiana. Ho capito, quindi diciamo che porta un po' di Colombia nella sua cucina nel ristorante di Roma. Ma abbiamo ripescato Guido da Rimini. Prego Guido. Allora Guido casca continuamente. Bene, continuiamo allora a parlare con Roy. Roy, io so che lei fa una carbonara che è abbastanza nota, ma fa una carbonara all'italiana o una carbonara con un mix alla colombiana? Allora no, come ho detto prima, la mia cucina è di impronta molto italiana, però io guardo al futuro. A me piace, sono stato in Italia e ho voluto conoscere la sua tradizione, mi sono calato proprio in quell'italianità che non mi apparteneva, ma io penso che le radici di un popolo sono la sua cultura, però bisogna sempre guardare avanti, no? E quindi la mia carbonara è una mia interpretazione di quello che secondo me è quello che piace di più della carbonara, della sua cremosità. Quindi è un concentrato di cremosità di carbonara. Facciamo un uovo a 65 gradi a bassa temperatura, molto cremoso, una spuma di parmigiano pecorino, del guanciale di cinta senese, e accanto abbiamo messo il pretesto la pasta soffiata croccante insieme alla cotena soffiata. Quindi quando assaggi questo piatto senti cioè se chiudi gli occhi è carbonara. Ho capito, ha tutti gli ingredienti della carbonara, ma è solo la cremosità della carbonara. Sì, diciamo, si riconosce. Diciamo che è un'ora in cui la fame comincia ad emergere, quindi sicuramente ci sta mettendo l'acquolina, perché io non ho chiesto tutti i piatti, però sapevo di questa sua peculiarità. Bene, io abbiamo un cosmopolita, perché mancava, anche se è diciamo di origine cingalese, però ha vissuto in Giappone, ora in Italia, quindi diciamo porta una serie di culture. Buongiorno a Wiki Prian. Buongiorno Wiki. Buongiorno. Buongiorno. Allora Wiki, la tua cucina è sicuramente di impronta, se vogliamo, orientale, però tu fai moltissimo uso di olio, di aceto balsamico e quindi di prodotti italiani, e fai un mix, è così, vero? Sì. Ecco, perché questo? Perché utilizzi questi prodotti italiani appunto nella tua matrice, diciamo, iniziale della tua cucina? Sì, no, io ho studiato bene base come giapponese, cucina giapponese. Venuto in Italia, io ho visto tanti ingredienti e pieno ingredienti in Italia, migliori ingredienti. Ho capito. Io ho pensato, usiamo questi ingredienti per mio modo, anche tecnica giapponese. Arrivato benissimo per quello, anche per gli italiani io cucino sempre. Beh, devo dire che l'utilizzo degli oli appunto da Wiki è veramente interessante, perché ne usa tanti per ogni piatto, quindi una cultura dell'olio che fa onore a uno straniero che sicuramente nel suo paese non l'ha mai conosciuto. Sentiamo Gianfranco da Lugano, radioascoltatore. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a lei. Sono di Lugano, però abito a Lugano ma sono italiano. Ecco. E volevo parlare un attimino della cucina uzbeka. La cucina uzbeka, cioè confermare quello che ha detto prima uno chef, ovvero che la verdura all'estero, in questo caso specifico dell'Uzbekistan, non ha un gran sapore, magari è genuina però non è molto saporita. E parlando di un piatto che è il plov, è un piatto a base di riso, di carne di pecora o di agnello o di altri animali, con carote e con altre verdure, cotto a fuoco lento, ma non proprio poco, ma in una grande come diciamo noi, caldera, no? Io riesco a mangiare un aglio intero, non uno spicchio, ma un aglio intero, perché è cotto talmente bene, certo, che anche quelli che hanno lo stomaco delicato come me, alla mia età, ho 66 anni, io riesco a mangiarlo e a digerire e a dormire bene, tranquillamente. Grazie Gianfranco di questa spiegazione. Io voglio tornare da Roy e voglio tornare in Colombia, perché voglio sapere da lui perché ritiene che la cucina italiana all'estero, fatta all'estero, è così bistrattata. Allora, secondo me la cucina italiana all'estero ha questa immagine, anche se sempre meno, io da quello che vedo sempre meno, però perché comunque le persone che vanno all'estero non trovano più le materie prime che trovavano qua, e poi si adattano molto ai gusti dei nuovi clienti, chiamiamoli così, e quindi è comunque un'attività commerciale, e non possono, non avendo i prodotti e non avendo gli stessi clienti ma altre esigenze, modificano questi piatti e diventano dei cliché, dei piatti distrattati, punto. Wiki è appunto un cosmopolita che gira il mondo, come vede la cucina italiana, quella fatta all'estero? Fatta all'estero? Sì, dai ristoranti italiani in Stati Uniti, in Giappone, in giro per il mondo. Posso dire una cosa? In giapponese, sì, loro arriva in Italia, impara bene e fa in Tokyo e in Giappone cucina italiana benissimo. Anche in un altro paese è così. Quindi... Sì. Quindi insomma imparano bene e tornano bene. E beh sì, diciamo che ce ne sono alcuni, sì, veramente, che ci sono dei ristoranti che rifanno perfettamente la nostra cucina, altri un po' meno. Ma siamo arrivati in fondo a questo giro planetario con chef stranieri che operano da tanti anni in Italia con grande successo. Allora io ringrazio Wiki, ringrazio Roy, ringrazio Maurizio e Mattias, e niente, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con il Gastronauta. Un buon weekend da Davide Paolini.